Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. I nostri giorni sono contati. La fine del mondo è vicina. E se vi dicessi che io so quando il mondo finirà? Sì, anch'io penserei di essere pazzo, ma ho una fonte. I continenti non avrebbero più gli stessi contorni di oggi. Nuove isole emergerebbero dagli oceani, mentre intere zone verrebbero cancellate. In Italia rimarrebbero solo alcune zone alpine e appenniniche. La Sardegna e la Corsica, invece, formerebbero un'unica grande isola del Mediterraneo. Io già mi preparavo ad andare in vacanza quest'estate nella Corsichegna, questa grande unica isola nel Mediterraneo, ma non vedo segni dell'apocalisse. Devo dire, sono un po' deluso. Io un anno fa mi ero comprato tutti i libri di Giacobbe, ho visto tutti i film, ho guardato tutti gli spettacoli televisivi, avevo notti e notti passato sui siti apocalittici che mi davano tutti i segnali, i luoghi dove radunarsi, cosa fare. Avevo cominciato a fare una colletta fra i miei amici per fare l'arca della salvezza, dove potevamo salvarci almeno in 4-5, con le famiglie, con i ragazzi, con i cani, con i gatti, tutti contenti, anche i miei gattini erano lì, Ciccia, Baffa e Pallina, dicevano miau, miau, miau, portaci dentro l'arca della salvezza. Invece, oggi è il 21 novembre, fra un mese esatto finisce il mondo e voi cosa fate? Niente. Parlate questa mattina dell'indicatore di reddito, vi occupate delle primarie del PD e del PDL, state a guardare in giro cosa c'è, ma non vi siete resi conto che tra un mese finisce il mondo. Perlomeno questo sembrava essere l'argomento agli inizi di quest'anno, che impazzava su giornali, telegiornali, fanta rubriche televisive, e scienziati ne parlavano, è vero, non è vero, è possibile, è immaginabile. Ma adesso che manca soltanto un mese, non ne parla più nessuno, a nessuno interessa più della fine del mondo. Ma voi davvero non vi state preparando a quello che accadrà il 21 dicembre, quando per la profezia del calendario Maya arriverà una sfera di fuoco, spazzerà tutto, il mondo cambierà completamente? O era tutta una panzana? Ma perché non l'abbiamo detto un anno fa e lo diciamo soltanto oggi? Le vittime si attenevano al calendario Maya, che ha predetto la fine dei tempi per il 21 dicembre del 2012. Non ci crederete. Pensavo che avessimo più tempo. Il mondo, come sappiamo, presto finirà. I Maya lo sapevano. La Bibbia. È la fine del mondo, amici miei. (800) 24 0024. Voglio capire questa mattina se qualcuno tra gli italiani, che sembravano tra le popolazioni più attente dopo i francesi alla fine del mondo, i francesi sono stati molto delusi perché il luogo, poi come sentirete, in cui potevano salvarsi è stato chiuso al pubblico. Il 21 dicembre non vi salverete, o francesi, e quindi cosa farete? Non lo so cosa farete. Io dico quello che farà l'ascoltatore che mi scrive un sms: per 30 giorni mi sfondo di canne e sesso mercenario. Saluti. Massimo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Come passerà lei questi 30 giorni che ci separano dalla fine del mondo? Beh, 30 giorni naturalmente lavorando, perché bene o male continuo il mio fan, però ma che lavoro a fare? Tanto dopo non ci saranno padroni, non ci saranno operai, non ci saranno dipendenti. Sì, ma è giusto, perché tra l'altro in mezzo alla natura, quindi lavoro anche in un giardino botanico, sto anche bene, mi godo, diciamo, la natura anche direttamente. Però che poi non ci sarà più dopo il 21 dicembre. Dopo non ci sarà più, purtroppo. Però no, la natura rimarrà, non ci saremo più noi. Però il discorso ma cambierà tutto, non ha sentito Giacobbo, sono anni che lo dice. I continenti si aggregheranno in maniera diversa, Sardegna e Sicilia un'unica isola, già sono tutti allarmati lì. Vabbè, ma la natura ci sarà sempre, quello, cambierà le forme, ma ci sarà sempre la natura, quello non è il problema, siamo noi che non ci saremo più. Comunque l'ultimo mese lo passerò con i miei colleghi a stabilire cosa dovremo fare per l'ultimo giorno lavorativo, che neanche farò apposta, cade il 21 dicembre. Faremo una mega grigliata come ogni anno, dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio, e sperando che naturalmente la fine del mondo arrivi, non so, dopo le 4 del pomeriggio. Cioè vi sfondate mangiando e arrostendo carne. Noi volevamo, facciamo proprio un'assemblea apposita di un'ora per stabilire cosa dovremmo mangiare, cosa comprare. E dove andate a fare questa festa della fine del mondo? Dentro questo nostro giardino botanico qui a Verbania, faremo questa Ah, nel giardino botanico. Sì, sì, tanto la legna non manca, la legna secca non manca. Cioè date fuoco alle specie rare di alberi? No, specie rare no, a parte che anche l'ultimo giorno, quindi raro non raro. Però dico le specie rare, quelle morte, il rarissimo baobab della Papuasia, queste cose date fuoco quello. Vabbè, sì, questa mi sembra una buona maniera per terminare il mondo, ma come almeno dici... la pancia piena, almeno quello lì. Beh sì, intanto non ci saranno problemi di digestione, non avrete visto il tempo. Visto che il destino è quello, 800240024, facezze a parte, ma qualcuno veramente si era preoccupato, qualcuno era angosciato, feci trasmissioni un anno fa sulla fine del mondo, sentivo cardiopalma e batticuore, oggi veramente non gliene importa più niente a nessuno. 800240024, raccontatemi come vorrete passare gli ultimi 30 giorni. Per chi crede alla fine del mondo, a Bucarest, l'unico paese dove ci si può salvare dall'apocalisse, i prezzi delle case volano, la montagna sacra protegge dall'apocalisse ma non dal business. Il Monte Bucarest, con la sua misteriosa energia, salverà dalla fine del mondo prevista dal calendario Maya per il 21-12-2012 chi quella notte si troverà sotto la sua protezione. La fine del mondo è fantastica. La fine del mondo è una cosa fantastica. Fantastica per il business. Ma se mancia pubblicità con questo? Soldi. Sì, soldi. E questo è un disco volante. E questo sì. E questa costa? E questa 12 euro. Ma c'è stato veramente questo business che l'abbiamo sempre immaginato, sospettato? Sì, qualcuno ha fatto dei colpacci vendendo i libri, c'è stato un film del 2009 suggestivo, la gente si salva con queste famose arche, ma nel frattempo come si sono fatti i soldi sulla fine del mondo? E in questi ultimi 30 giorni c'è chi vende pacchetti specializzati o chi fornisce piaceri riluculliani o carnalmente impensabili per passare in felicità questi ultimi 30 giorni? Chi invece pensa che ci sia un altro mondo oltre questo che finisce, come giustamente finisce, come è stato annunciato che debba finire, anche se il Papa ci ha tenuto a specificare che il Padre Eterno non ha mai fatto profezie certe sulla fine del mondo, ha detto che un giorno finirà, ma non ha detto finirà fra un mese. Beh, questi come si stanno organizzando? Voi soprattutto cosa state facendo? Anna Maria. Sì, pronto. Volevo dire che la risposta è semplice, basta leggere Matteo 24:36. Mannaggia, averlo saputo prima, un anno fa. Guarda, qua dice in quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno sa. Quindi non bisogna stabilire delle date, Gesù o Dio non ce l'ha indicato. Sì, ha detto anche il Papa domenica, l'Angelus. Sì, ma ciò non significa che dobbiamo fare al lupo pensando che questo non arrivi mai, non dovrà arrivare mai. Quindi lei si prepara da quando è nata alla fine del mondo? Beh, ci sono dei segni. E ne dica ci uno. Ci sono dei segni. Ad esempio? Matteo 24:3. Questa domanda la posero gli apostoli circa 2000 anni fa. E ma oggi invece? I segni sono quelli che stiamo vedendo. Me ne dica uno. Per esempio terremoti, pestilenze. E quelli sempre stati però. Aumento dell'illegalità. Bisogna approfondire un po' di più il Vangelo. Quindi secondo lei, diciamo, siamo noi ciechi che non osserviamo che in realtà la natura si sta ribellando. È un'occasione che ci sono dei ciechi a livello spirituale, che non vogliono vedere l'evidenza. Ma ci apra gli occhi, ci faccia capire qualcosa di più rispetto a quello bisogna che... Bisogna leggere di più la Bibbia. Sì, ma a parte leggere la Bibbia. Nello specifico, Matteo 24. Vabbè. Dove sono indicati i segni degli ultimi giorni. Ma ce ne dica qualcuno però, ci riassuma. L'abbiamo detto, l'aumento dell'illegalità, questo è un segno composito. Non dovremmo vedere singolarmente le guerre, le pestilenze, i terremoti, ma è un segno composito che avrebbe contraddistinto come l'impronta digitale, che non deve essere inequivocabile. Ci vuole solo più conoscenza. Quindi l'Agenzia delle Entrate in realtà dovrebbe leggere più Matteo 24 piuttosto che inventare sistemi per... Faremmo bene anche noi a livello personale a lasciare questi libri, letteratura mondana, leggere di più il Vangelo e capirlo soprattutto. Lei cosa legge oltre Matteo 24? Marco 13, Luca 21 e insieme tutta la Bibbia. È una bella bibliotechina. E lei cosa fa? Come si sta preparando alla fine del mondo? Cercando di fare delle opere meritorie. per esempio quello di annunciare ad altri il Vangelo, quello che ha detto Celentano, non dimentichiamo che è stato anche deriso da tutti, anche Gesù fu deriso. Celentano a Sanremo ha lanciato una... Lei cosa direbbe a questi che mi stanno scrivendo? Io preparo a passare questi ultimi giorni in amori mercenari, facendomi droga, mangiando e godendo. È un segno, anche questo fa parte del segno che Gesù ha indicato. Leggete anche secondo Timoteo 3, dove dice che negli ultimi giorni, secondo Timoteo 3, da uno in poi, che gli uomini negli ultimi giorni... Anna Maria, la ringrazio per tutte le indicazioni di lettura. Lei è fortunata che rispetto a noi, poveri peccatori, che non leggiamo e non abbiamo tempo e non abbiamo modo e non abbiamo virtù per leggere queste carte, finiremo ancora peggio, oltre alla profezia Maia, i cerchi nel grano, il sacro Graal, gli UFO e via dicendo, dovremo fare i conti anche con la nostra cattiva coscienza. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi è un filosofo della scienza, uno storico e anche autore di un programma di divulgazione scientifica e Sei domani su Rai 3. Nella prossima edizione vi preparate a segnalare la mancata fine del mondo? Beh, se andremo in onda sarà una delle prime prove, diciamo, che la fine del mondo non ci sarà stata o perlomeno sarà stata rimandata, perché una delle caratteristiche delle profezie è che non è che quando non si verificano vengono definitivamente spazzate via, ma di solito si dice avevamo capito male, era un'altra data. È un po' come l'Armageddon di Testimoni di Geova, adesso mi linceranno, ma è stato più volte rimandato. Esatto. Oppure ti faccio un altro caso, un'altra delle date, sempre leggendo l'Apocalisse, che era stata indicata per esempio dall'abate calabro Gioacchino da Fiore come una delle date possibili per l'Apocalisse, era il 1260. Newton, e dico Newton, non la signora che ha parlato prima, ma Newton, Isacco Newton, era uno che studiava molto il testo dell'Apocalisse, era anche un raffinatissimo teologo, ha fatto i conti, ha visto che effettivamente nel 1260 non c'era stata nessuna Apocalisse. Probabilmente ci siamo sbagliati. Però guarda Stefano, anche sì. Margherita Hack ha detto non ci sarà più nel 2012, ma nel 2036 che ci sarà un asteroide o qualcosa del genere, quindi è rimandato di un bel po'. Margherita Hack ragionava sicuramente secondo altri termini, valutando la probabilità che un asteroide passasse, questo è un altro discorso, ma Newton ha detto una cosa interessante, non si è verificata nel 1260, benissimo, forse abbiamo sbagliato, dovremmo partire dall'incoronazione di Carlo Magno nell'800, allora 1260 più 800 fa 2060. Allora fermati un attimo Stefano, visto che hai citato Newton, devo integrare questo tuo intervento con la voce autorevole di un tuo collega, aspetta. Isaac Newton. La scoperta della legge di gravità farebbe associare la sua figura a quella di uno scienziato estremamente razionalista, ma in realtà Newton era un personaggio molto più complesso, affascinato dall'alchimia e dalla cabala, era praticamente ossessionato dal calcolo matematico per prevedere il giorno dell'Apocalisse, che secondo lui sarebbe arrivata nel 2060. Scopriamo le sue incredibili ricerche. Ecco Stefano Morigi. E intanto Gianluca, guarda che rischi la querela a dirmi collega del signore che ha appena parlato. Anche lui fa un programma in televisione alla Rai di divulgazione. Sì, ma non è un programma di divulgazione scientifica, è un programma di fantasy che gioca, diciamo, tra il serio e il faceto. La storia di Newton è assolutamente vera, ma insomma bisogna prenderla con le pinze, contestualizzarla e studiare la grandezza di questo scienziato nel contesto in cui è vissuto e anche nei calcoli che effettivamente ha fatto studiando l'ipotesi della fine del mondo, insomma andiamo. Però, in più c'è l'accezione che in questo programma si considerano anche altre circostanze come i cerchi nel grano, gli UFO, certo, e via dicendo, che esatto, di cui bisogna tenere comunque i bambini indaco, insomma tutti bambini indaco che certo, prevedono naturalmente la fine del mondo. Simone è già finito per lui il mondo. Marcello, buongiorno. Senta, una storia. Sono nato e vissuto in Africa. Nel 50 una signora torinese che viveva nel Messico con un tedesco che era scappato nel 43 dalla Germania ed era andata a vivere nella foresta lì messicana. Cioè, lui visse 6 mesi lì, poi andò a vivere a Città del Messico, quando tutto si è finita la guerra, si era calmato tutto. Naturalmente un ex nazista, questo, che è notorio, sì, che era una conoscenza di segreti occulti anche lui. Sì, e dette alla moglie una medaglia dove c'è il calendario dei Maya. Dei Maya. Lei, venendo giù in Africa, posso dire anche a Tripoli, venne a Tripoli, a trovare il figlio e mi portò come regalo questa cosa qua e mi disse, mi raccontò questa storia che in questa foresta gli dettero questa medaglia al marito, insomma. Quindi già i nazisti sapevano con i loro studi misteriosofici onde assicurarsi l'eternità per la razza ariana che il calendario dei Maya prevedeva sarebbe finito il mondo. Allora io gli ho detto alla signora, ma scusi, perché non glielo regala? Come mai questa storia non glielo regala a suo figlio? Dice, no, perché mio figlio non potrà arrivare al 21-12, e infatti è morto 15 anni fa. Beh, portava dice, anche leggermente sfiga questa medaglia. No, dice, se a te non succede niente, tu ci arriverai. Sì. Io le voglio dire questo, io poi ho avuto tante pericolose. I miei colleghi al di là del vetro in questo momento, misteriosamente, non vedono più le mie mani, chissà perché. Prego Marcello, vada avanti. Senta, no, io ho avuto tante peripezie, se le dovessi raccontare, sono venuto via dalla Libia, sono venuto via dalla Libia. Ma infatti è mandato via. Scoppiata una sanguinosa guerra civile. Ero sposato, mi sono separato. Insomma, ho avuto tante peripezie. Io sono 62 anni che ho con me, sempre con me, questa medaglia che rappresenta il calendario Maya. Senta, allora, visto che lei è così attrezzato, anche la medaglia che proviene da un lontanissimo centro del mondo, dove il re del mondo l'ha detta al nazista, l'ha detta alla signora africana, che l'ha detta a lei con il figlio morto e via dicendo. Cosa farà questi ultimi 30 giorni? Ecco, io voglio dire questo. Io a un certo punto sto arrivando a credere che se dovesse veramente verificarsi e si salveranno delle persone, io penso, perché io con tutto lei sicuramente con quella medaglia è salvo. E io sono fallito 3-4 volte perché io sono un grosso giocatore di casinò. Non avevo nessun dubbio. Ho avuto tante storie e io come se mi portasse una fortuna, io penso, perché ho superato sempre, ma ho fatto esatto, però la fortuna non è che è a misura infinita. Chi la prende la toglie agli altri, quindi intorno a lei ci sarà un cerchio mortifero. Che sta pagando, sicuro, compreso mia moglie, i miei figli. Che hanno avuto disgrazie terribili. No, non devo dire disgrazie, però voglio dire, siccome io mi ritengo un uomo fortunato, ho 77 anni che se lei mi vede... In bocca al lupo, in questo ultimo mese le auguro di continuare la sua fortuna. Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno. Massimo Polidoro è un giornalista, uno scrittore, un divulgatore scientifico che è segretario nazionale e cofondatore del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Polidoro, hai avuto a che fare con la fine del mondo in questi ultimi anni? Ahimè sì. Ma perché non ne parla più nessuno? È andato male il business? O chi ha avuto? Ha funzionato e adesso, siccome stiamo arrivando proprio alla conclusione della vicenda, dove si vedrà che ahimè non succederà proprio niente, ecco che diventa difficile poi tenere ancora in piedi la storia, no? Dover dire ma com'è che non è finito il mondo? Allora ecco che cominciano le scuse, cominciamo a mettere le mani avanti. Cioè, per esempio, si dice, chi sicuramente dirà il giorno dopo, non è successo niente, è vero, ma è grazie alla nostra, no? Alla nostra energia, alla nostra potenza. Alle catene umane che sono state fatte, ai bambini indaco che hanno pregato, a tutte queste cose qua. Senti, invece nei mesi passati cosa hai individuato te? Perché io mi ricordo un anno fa si parlava addirittura di grandi esodi di massa, di fughe verso centri specializzati in salvezza. L'unico posto accertato che era questo luogo nei Pirenei, hanno pensato bene di chiuderlo al traffico e ai turisti almeno per quella notte. Beh sì, non so se ci sarà proprio la resta, però insomma sì, chi ha pensato bene di proporre rifugi antiatomici, di vendere scorte e sistemi per salvarsi, basati magari anche semplicemente sul fatto di dover dire certe formule magiche piuttosto che cose anche molto più banali, ovviamente a caro prezzo, sicuramente ha trovato chi se le comprava e chi ci spendeva dei soldi, però ecco, c'è anche chi ha provato a dare una parvenza quasi scientifica, no? A tutte queste affermazioni, sostenendo che in effetti c'erano coincidenze cosmiche, allineamenti di pianeti e altri improbabili in realtà, cioè, eventi anche realistici e verosimili, che però non avrebbero avuto nessun effetto sul nostro pianeta, e questo però ecco, ci si dimenticava di spiegarlo, soprattutto nei libri che in questi ultimi anni hanno anche venduto. Sono stati dei best seller, no? Hanno venduto tantissimo. C'è una differenza fra una previsione e una profezia. Cioè, la previsione in realtà è corroborata, come dici te, da una parvenza di scientificità. La profezia o ci si crede o non ci si crede, e chi non ci crede, ahimè, fa parte della fetta di umanità che finirà male. Ecco, sì, per chi ci crede, ovviamente quelli che non credono finiranno male. Quelli che invece non ci credono proprio non si preoccupano e nemmeno si accorgono che arriva la data e che passa. Non so chi dei due viva più male. Io penso che in questa occasione ha vinto, mi sembra singolare, ma è così, la razionalità. Perché non ho mai visto una così totale indifferenza. Oggi l'unico a cui è venuto in mente di ricordare tra un mese dovrebbe finire il mondo siamo stati noi. Perché non ho visto gli stessi giornali che hanno fatto inserti. Io ho cominciato a scrivere, mi ricordo, una rubrica sulla fine del mondo tipo 3 anni fa. Mi chiesero di scrivere mese per mese cosa sarebbe accaduto se fosse finito il mondo. Ma a un mese di distanza ce lo siamo tutti dimenticati. L'uomo ha sempre cercato di scoprire cosa gli riservava il futuro. E a quanto pare il popolo più abile nella chiaroveggenza è quello degli indiani Hopi. Questi grandi profeti emergono letteralmente dal Grand Canyon centinaia di anni fa. Gli Hopi hanno 9 sacre profezie che preannunciano molte delle grandi invenzioni dell'uomo moderno. L'arrivo della ferrovia, delle auto e persino di internet. E tutto questo centinaia di anni fa. Gli Hopi hanno anche una profezia sulla fine del mondo che sarebbe imminente. Quello che è spaventoso è che questa previsione è quasi identica a quella apocalittica dei Maya. Pensa un po', questo è History Channel, no, lo dico per quelli che mi stanno scrivendo che t'ha fatto Giacobbo, t'ha picchiato da piccolo, ma no, è un simpatico collega, però uno quando si espone alle prese per il culo naturalmente poi non se la prende, naturalmente, perché è di ampie vedute. Devo dire che questo era un servizio sugli indiani Hopi che hanno visto internet, la ferrovia e naturalmente anche la fine del mondo su History Channel, ma mi dispiace, devo dire un po', che noi siamo un paese che parla, ma ha una così scarsa conoscenza anche delle proprie radici storico, filosofico e religiose più importanti. Mi stanno arrivando messaggi assurdi che mi chiedono informazioni su Matteo 24, che è stato citato da quella signora. Ecco quel passaggio del Vangelo in cui mi sembra di ricordare Gesù sul Monte degli Ulivi, dopo aver detto qua non rimarrà nessuna pietra di questo tempio, così gli chiedono i discepoli, ma dici, ma quando succede, che accade? Cioè, no, dice, arriveranno altri profeti, falsi profeti, parleranno a nome mio e vi diranno queste cose, quindi oggi stiamo raccogliendo questa profezia. Ma non è, come dite voi, un rapper che ha cantato insieme a Frankie Energy? Oppure altri mi chiedono se è un derivato del Sole 24 Ore. Non c'è un inserto del Sole 24 Ore che si chiama Matteo 24. È il Vangelo. Andatevelo a comprare e leggetevelo. Stefano Morigi, ricordo, filosofo della scienza. Riportiamo la situazione su un piano di credibilità scientifica. Io sarei un pochino meno ottimista di quanto lo sei stato tu prima, perché credo che sia centrale la distinzione che avete introdotto poco fa, cioè tra previsione e profezia. Una previsione scientifica è sempre falsificabile, cioè se tu hai dei controesempi la butti via e ne fai un'altra. Se invece hai un controesempio rispetto a una profezia, cioè esempio il 21 dicembre non succederà nulla, beh, si dirà che è stata interpretata male, che il mistero che è custodito in quella profezia non è stato inteso. Ma infatti, guarda, è uscito proprio tipo un mese fa un'improvvisa scoperta rispetto a un so quale frammento che ha permesso di interpretare il calendario Maya in maniera che non era il 21 dicembre ma era spostata di qualche tempo. Assolutamente, è inevitabile perché... 15 febbraio. Il bisogno psicologico di indovinare dietro i fatti della storia o gli eventi della natura una volontà, un disegno soprannaturale è molto radicato, e non solo in una signora che con disinvoltura affianca Matteo 24 a Celentano, ma io ti ricordo che non più di un anno fa uno stimato, da qualcuno stimato, non da me, studioso, che era addirittura vicepresidente del CNR, ha detto che il terremoto in Giappone era un segno del castigo di Dio. Quindi è molto molto più complessa, radicata e diffusa questa tentazione, a mio parere perniciosa, di vedere dietro i fatti della storia, della natura, realtà soprannaturali. D'altra parte c'è ancora qualcuno, c'è molta gente che ha bisogno di trovare un senso della propria vita, anche apocalittico, al di là della realtà che ha a disposizione. Ma non è esattamente possibile, secondo te, Stefano, visto che sei persona che difende le sue posizioni ma assolutamente tollerante verso il resto del mondo, che si possa finalmente scindere nella coscienza delle persone una lecita apprezzabile se vuoi, ma assolutamente non censurabile confidenza in mondi che vanno al di là la realtà sensibile, che non vada poi a inquinare quello che è il cammino importante e fondamentale della scienza, che è la ricerca dell'uomo su basi certificabili, sperimentabili. Ma è una cosa molto difficile da fare. Io credo che siano due mondi molto lontani nel linguaggio, nell'atteggiamento verso quello che si considera esperienza, verso quello che si considera come evidenze. Esistono certamente degli scienziati credenti, ma certamente la maggior parte di loro non rispettano, diciamo così, il magistero della Chiesa. Nel mio caso le due visioni sono assolutamente incompatibili, ma è sintomatico che quello che dicevi tu prima, che non c'è neanche bisogno di una conoscenza. C'è chi crede nelle profezie, spesso non conosce neanche le scritture. Cioè, tu mi stai dimostrando poco fa che la maggior parte delle persone che ti scrive non sa neanche che cos'è Matteo 24. Sì, però ci sono anche delle maestrine che mi scrivono, una persona dice, si dice cardiopalmo, non cardiopalma. Io sto davanti treccani.it, cioè il lemma cardiopalma, percezione soggettiva nota anche come palpitazione. Comunque. E comunque no, questo per dire che non c'è neanche una conoscenza dei testi, non serve neanche quella. Il mistero è un buco nero dello spirito in cui noi rifugiamo tutte le nostre paure, tutte le nostre, come dire, incertezze, perché il linguaggio della scienza è attendibile, ma non è rassicurante. E allora molte persone non si accontentano dell'attendibilità, vogliono una rassicurazione, un significato che vada oltre e che spieghi loro che la vita non finisce con la morte, ma probabilmente c'è qualcosa dopo. Sarebbe molto semplice pensare tutto quello che prima è un lecito esercizio di un atto di fede, l'esperienza reale e concreta sia dopo morti ognuno avrà la certezza, è sicuro di quello che accade, o l'incertezza totale. Orlando, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Innanzitutto io le dico che continuerò la mia vita normalmente. Non farà nulla, nemmeno la notte del 21. Cosa vuole dire? Non lo so. No, di solito mi piace cucinare, quindi cucinerò qualcosa di più. Sì, cucini un pochino prima della fine della giornata, perché dopo non fa in tempo a mangiare, nel caso. Ma poi volevo fare un'osservazione, non so se è stata fatta, perché purtroppo non ho ascoltato solo in parte. Non si è mai tenuto conto dello sbaglio che ha fatto il famoso Dionigi Esiguo nel calcolare le date, no? Quando è stato cambiato il calendario. Praticamente la fine del mondo, secondo me, doveva essere già venuta 5-6 anni fa, insomma, ecco. I Maya questi non lo potevano sapere, questo dettaglio qui. Io Stefano, so se... Morigi, vieni in conforto rispetto a quello che hai capito che dice. Sono dettagli, sì. Ce ne sono una marea di fine del mondo, il 999, il 1000, il 1000. No, dice l'ascoltatore, i Maya hanno dato una misurazione del tempo che non è quella nostra. Ma poveretti, i Maya hanno fatto un loro calendario, e un calendario come tutti i calendari finiscono. Il nostro finisce il 31 dicembre e ricomincia l'anno dopo con il 1 gennaio. Non finisce il mondo ogni 31 dicembre, apriamo lo fumante, stiamo tranquilli, insomma. Deborah. Buongiorno. Sì, Deborah. Buongiorno. Allora, come ho detto al suo collega, praticamente io sono una testimone di Geova, di cui prima parlavate. Ah, sì. E quindi noi, diciamo, basiamo tutto il nostro credo sulla Bibbia come parola di Dio. La studiamo e abbiamo capito, come diceva anche la signora che mi precedeva, da Matteo 24:14, sì. Cioè Matteo 24, ci sono dei segni, un segno composito da diversi avvenimenti, molto precisi, e comunque anche Gesù disse che sì, però, sempre stati terremoti, guerre, eccetera, sì. Però non sarebbe stata ancora la fine, sarebbe stato... poi un tempo in cui sarebbe sorta nazione contro nazione. Ma quando avviene la fine, secondo voi, quando ci sarà? Allora, noi non abbiamo mai messo date precise sulla fine. È chiaro che l'aspettiamo. Chiaramente Dio non ha... siccome vuole che lo serviamo per amore e non per una data, chiaramente ha dato un segno, Gesù ha dato un segno. Da quel segno Adesso siamo molto inoltrati nel tempo della fine, ma finirà il mondo come terra, finirà la malvagia società umana, quella che si aliena da Dio, cioè quella che non vuole osservare i comandi da lui descritti nella Bibbia. Vabbè, se basta, la predica è finita, abbiamo capito, per gentilezza l'ho fatta parlare, ha detto quello che mi vengono a dire tutti i giorni quando bussano alla porta e vogliono vendermi gli opuscoletti, non mi dice nulla di nuovo, sinceramente. Ornella. Eccomi, sono qua. Io compirò il 21-12 di quest'anno 69 anni e lo festeggerò, anziché stare a casa a cucinare come gli altri anni per la famiglia, usciremo tutte a cena in un bel ristorante e i miei figli e i loro compagni sono felici di questa occasione per stare tutti insieme. Quindi il 69 non sarà l'ultimo dei suoi compleanni, no? Cioè, ma penso proprio di no, se poi così sarà, pazienza. Avessi 30 anni penso lo prenderei in un modo diverso, ma alla mia età... L'importante è cogliere sempre un lato simbolico in ogni cifra, in ogni numero. Venerdì 21 dicembre, anno 2012. È questa la data che antiche profezie indicano come la possibile fine del mondo. C'è chi prevede l'Apocalisse o l'Armageddon e chi invece parla di una nuova era cosmica, un'epoca di grande pace e armonia. In entrambi i casi i segni premonitori sembrano iniziare già a manifestarsi. E tutto ciò che c'è da interpretare è scritto in tempi antichi... 80024, 0024, notate come oggi risultano grottesche, ridicole, ci costruiamo, inanelliamo facezze su questi messaggi che ho mandato soltanto un anno fa, la gente tremava perché ci dice queste cose, abbiamo paura, già viviamo un periodo mesto e ci fai riflettere, ci fai pensare, ci stringiamo ai nostri bambini, all'amore della nostra vita e attendiamo tremebondi quello che può accadere. Oggi se ne coglie il lato ridicolo, ma qual è il lato ridicolo di ogni previsione di Apocalisse, di ogni fine del mondo? Alessandro. Buongiorno signor Nicoletti, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo dire semplicemente, volevo allacciarmi un po' a quello che diceva anche la signora dei testimoni. C'è anche lei con Matteo 24. Allora, innanzitutto io sono un cristiano evangelico, credo nella parola di Dio, non credo. Sì, ma ho dato la stura a tutti, scusate, ma stiamo facendo una trasmissione sul filo del divertimento, parlando di una cosa che ha appassionato l'umanità. Perché avete questo bisogno di contaminare il mondo col vostro credere? Se lei ha fede, si considera infortunato. Se parla lei non posso parlare io, perdonate. Sì, ma sì, mica detto la faccia parlare, allora, non è un obbligo costituzionale che io la faccia parlare. Allora, se mi dice la stessa cosa di Matteo 24... Io sono la persona più felice di questo cosa mondo. Deve dirci allora? Cosa deve dirci rispetto a fine al mondo? Le stavo dicendo, se lei veramente è un credente come tutti quanti gli altri, ma lasciamo stare queste sciocchezze di questi signori e crediamo più alla parola di Dio che invece... Va bene Alessandro, grazie, buongiorno Alessandro, crea una parola di Dio, faccio giornalista e io racconto quello che vedo con i miei occhi fisici, quello che vedo con l'occhio interiore e spirituale, lo tengo per me stesso, ammesso che abbia questo terzo occhio. Nadia. Buongiorno dottore. Sì. Io volevo intervenire seguendo un po' il discorso che aveva fatto, non l'ultimo signore, ma quello precedente. Sempre Matteo 24 però era. No, su Matteo 24. Mi spiace, sembra che io voglia ridere la Sacra Scrittura, ma trovo fantastico che ci siano persone che approfittano di uno spazio che viene dato su una riflessione riguardante le cose del mondo, le cose concrete, la società, qualcosa che non ha nulla a che fare in questo momento con una visione religiosa della vita, che può essere una delle tante componenti dell'umanità. E devo sempre metterci lì e tirare fuori, seguire la parola di Dio. Benissimo, seguite la parola di Dio, ma permettetemi di osservare quello che è un derivato, se volete, della parola di Dio, che è il mondo concreto che mi circonda, dal quale io colgo segni. Nadia, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo riprendere piuttosto il discorso delle cosiddette profezie dei Maya, i quali appunto come aveva detto giustamente Stefano Morigi, sì, si è giocato molto sul fatto che è un sistema del calendario dei Maya, non è tanto una profezia in base alla quale il 21 dicembre dovrebbe scatenarsi l'Apocalisse o altro. è la fine di un periodo, come giustamente diceva quel signore, come il nostro calendario termina il 31 dicembre, così loro, con due periodi molto ma molto più ampi, con dei conteggi più complessi, questo periodo coincide col 21 dicembre e quindi il giorno dopo ne comincia un altro. Lei però sa benissimo che molti abbiano voluto giocare un po' su questo, un po' ad arte, anche perché forse non so, può essere divertente per qualcuno scatenare un po' le paure innate che ci portiamo dentro. Ha procurato anche fortune letterarie, ha fatto fare dei film, certo, ha creato certo. un movimento di opinione che non possiamo non registrare, dice non ve ne occupate perché è la parola di Dio. No, me ne occupo perché ci sono persone che hanno visto film, hanno letto libri, hanno pensato, hanno immaginato, si sono mossi, si è creato un movimento di opinione attorno a questa storia della profezia del 2012 e adesso, a un mese alla sua fine, registriamo il fatto, non gliene importi più niente a nessuno, quindi questo cosa dimostra, Stefano Moriggi? Ma io penso che dimostri un fatto, che non ne parla più chi non ci ha mai creduto e semmai ci ha marciato sopra, come alcuni dei signori che tu citavi poco fa. Invece c'è molta gente... Quindi ha avuto un senso comunque parlarne questa mattina? Assolutamente sì, perché hai mostrato che non ne parla più solo chi davvero non ci credeva e ci ha marciato sopra, o per interesse o per visibilità, insomma per qualsiasi tipo di ragione, ma c'è tutto un sottobosco di persone che ci credono, saranno disposti a spostare la data, a rileggere attraverso un testo sacro o un'altra esperienza che loro reputeranno come segno. Stamattina al bar io mi sono rovesciato il caffè addosso, evidentemente stavo ancora dormendo. Il barista mi ha fatto notare che non è un caso, che non è che io fossi addormentato, ma era un segno. Manca un mese alla fine del mondo, oggi 21/11/12 mi ha detto, ci faccia caso perché è data palindroma, si legge allo stesso modo andando verso sinistra e verso destra, e non è un caso che sia una data palindroma a un mese esatto dalla fine del mondo. Come vedi, io ho tentato di apportare qualche argomentazione, ma non c'è argomentazione che valga per chi vede segno ovunque. Quindi nel microcosmo ovunque del tuo caffè gettato sulla camicia c'era già uno dei segni, segno della fine del mondo, capito? Cioè imminente, è successo in un giorno in cui la data era palindroma, e quel giorno in cui la data era palindroma, cioè oggi, è esattamente un mese prima della fine del mondo. Questa modalità di ragionamento è quella che non accetterà mai un controesempio, perché è una convinzione basata su coincidenze che diventano segni, ma segni non vuol dire assolutamente niente. Ma io non... che uno voglia avere un suo supporto emotivo alle proprie ansie, creandosi questo universo di segni da interpretare, fa parte delle automedicine che ognuno lecitamente può usare. Che questo però diventi un così veemente strumento di contrapposizione dialettica, appoggiandosi poi su dati come appunto le scritture religiose, che per l'Occidente sono importantissime senz'altro, lo trovo un po' difficoltà a parlare con le persone che continuano a portarmi avanti Matteo 24 come motivo di non guardare più nulla di ciò che accade nella realtà e aspettare qualcosa che accadrà in un tempo mitico, in un tempo che non possiamo decifrare. Franco. Sì, buongiorno. Sì. Io volevo solo sdrammatizzare, volevo dire che quella sera noi organizzeremo nel nostro club, al Club Nautico Rimini, una tombola, una riffa per divertirci e sdrammatizzare questa cosa, per passare... Quindi create una controcerimonia sì, rispetto... Quindi fate la tombola della fine del mondo, così l'avete chiamata. Esatto, solo per dare questo contributo. No, bello, perché mi hanno scritto una tombolata da brivido, avevo letto male e avevo già qualche fremito di interesse quello che farete alla fine del mondo. Invece la tombolata, avevo letto male. Alessandro. Sì, salve. Buongiorno. Niente, solo per condividere il mio pensiero. Come tutte le stelle esplodono, anche il sole un giorno esploderà, quindi la fine del mondo sarà quando esploderà. Vabbè, questo comunque non faremo il tempo a vederlo a noi, come senz'altro mi conferma Stefano Moriggi. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, compresi anche gli amici di Matteo 24. A domani.